Quindi possiamo iniziare a parlare della trilogia. Sì. Questa storia così, così radicata nel passato, con un'articolazione di più di 20 album, più di 5.500 concerti, insomma, per ripartire dopo la tragedia del 2015, volevo un progetto importante, ambizioso, e qualcosa che non avessi mai fatto prima. E non avevo mai prima concepito, scritto una trilogia, cioè tre album concept collegati però uno all'altro. Perché è una cosa impegnativa, in quanto album concept devono avere una storia molto focalizzata e autonoma. Allo stesso tempo però ognuna di queste tre album concept doveva avere una liaison con gli altri due. Questo puzzle apparentemente difficile si è subito sciolto quando ci è venuto in mente di fare una trilogia dedicata all'esistenza umana. In fondo era una ripartenza quasi logica dopo la tragedia, la perdita dei due compagni di vita, di avventura, così, così cari, così vicini al mio modo più profondo di essere. E quindi Transiberiana, che è la via ferroviaria che, partendo con il treno da Mosca, ti porta fino a Vladivostok, sulle sponde dell'oceano del Giappone, del mar del Giappone, in Estremo Oriente, era un po' una facilissima, chiarissima metafora del viaggio della vita. E quindi, pensando a questo gioco metaforico, è stato facile immaginare una partenza, un imprevisto, una difficoltà, descrivere i compagni di viaggio. È uscito tutto da solo. Ogni volta, ok, chi c'è su questo treno? Siccome queste terre hanno molto diffusa una dimensione religiosa, una religione animista legata alla natura, visto gli spazi incontaminati in cui la Siberia è situata, ci sono molti, li chiameremmo grossolanamente stregoni, non sono stregoni, sono persone che parlano davvero con la natura, e quindi sono dei veri sciamani. E quindi c'è lo sciamano, è un brano si intitola Sciamano. C'è il problema dell'alcolismo che aggredisce spesso gli abitanti della Siberia, perché il freddo e la solitudine, insomma, ti può spingere verso questa autodistruzione. E allora il nostro sciamano è un alcolista che però comincia a confrontarsi con i compagni di viaggio e nasce il pezzo così. Da un'altra parte mi ricordavo di un'esperienza bellissima. Ti è mai capitato, scusa se te lo chiedo direttamente, dai, che un cavallo, grandezza naturale, vero, non potenziale, non virtuale, un cavallo vero ti sfrecciasse passando a un palmo dalla spalla? No. A me sì. Sopra c'era il mio amico Nicolò Fabbi, ero in Maremma, nell'Alto Lazio, e un cavallo dei Buttari della Tuscia romana con lui sopra, mi sfrecciò le spalle. Una sensazione incredibile, brividi dietro la nuca. E ricordandomi questo, ho immaginato che, stando sul treno della Transiberiana, nel chiuso del vagone, dal vetro, dal finestrino, potevo vedere dei gruppi di cavalli allo stato brado che correvano, accettando la sfida del treno, paralleli al binario del treno. E questa idea ha dato ispirazione a un altro brano. Insomma, molto forte è il legame tra l'ispirazione musicale e quella del racconto concept. Ho toccato con mano che, come compositore, io sono proprio legatissimo alla parte testuale della mia musica. È forse il punto da dove parte l'ispirazione poi compositiva. Quindi, tornando... Ma ripartire con questa grande storia, dopo quello che era successo nel 2015, mi imponeva una metodologia rigida, rigorosa. E quindi con Michelangelo da una parte, per la musica, e con Paolo Logli, l'altro autore dei testi, insieme con me, queste tre persone hanno scritto tutta la trilogia, i tre album. Dovevamo mettere dei puntelli molto precisi per garantire la qualità del lavoro finale. Quindi, ho detto subito, è vietata tassativamente l'imitazione di se stessi, fare cioè il verso al banco del corso. Non dovevamo produrre opere frutto di calcoli, di piani razionalizzanti, cioè pensati più che sentiti. In una parola, doveva esserci assolutamente una verità di ispirazione. una novità e allo stesso tempo una ripresa del cammino storico della band. Quindi da una parte devono essere novità, dall'altra riaffermare un'identità. Sembra un paradosso, no? Ma le cose difficili sono quelle che spinano di più, però. Allora il bisogno e la voglia di scrivere ancora, di esprimere sentimenti, da trasformare in suoni e parole, come del resto il banco ha sempre fatto. Quindi il piano concettuale doveva essere sempre centrale, ma senza permettergli al piano concettuale, ai concetti, alle idee, di soffocare il lato istintivo, viscerale, inconscio. È stato così che è nata l'idea di scrivere la trilogia dedicata all'esistenza umana.